Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Appena guariti, fummo tutti dimessi dall'ospedale e dalla compagnia delle suore, e poi mandati alle carceri della città di Fulda. Qui ci tennero come schiavi o criminali, sorvegliati da artiglieri con le micce già accese dentro i moschetti, di guardia alle porte dei cortili e dell'immenso dormitorio buio dove giacevamo distesi a centinaia, prima di venire spediti alle nostre rispettive destinazioni. Ben presto si capì, nel corso delle esercitazioni, chi di noi era un vecchio soldato e chi una recluta. I primi, finché rimanevano in prigione, avevano un poco più di libertà, ma erano anche sorvegliati più strettamente, se possibile, dei contadinotti avviliti, che erano stati costretti o convinti ad arruolarsi. C'erano uomini di tutte le nazioni e di tutte le condizioni. Gli inglesi tiravano di box e facevano i bulli. I francesi giocavano a carte, ballavano e tiravano di scherma. I pesanti tedeschi fumavano le loro pipe e bevevano birra quando riuscivano a comprarne. Chi aveva qualcosa da rischiare se la giocava. E in questi giochi io fui fortunato, perché pur essendo entrato lì senza un soldo, quei furfanti degli arruolatori avevano rubato fino all'ultimo quattrino dei miei averi. Vinsi quasi un tallero alla prima partita a carte con uno dei francesi, che non aveva pensato di chiedermi se avrei potuto pagare in caso di sconfitta. A questo serve, almeno, avere l'aria da gentiluomo. Il mio aspetto mi ha tratto in salvo molte volte, procurandomi credito, quando la mia fortuna era al suo punto più basso. Tra i francesi c'era un uomo bellissimo, il quale era anche uno splendido soldato. Il suo vero nome non lo sapemmo mai, ma la storia della sua fine generò non poco scalpore quando si diffuse nell'esercito prussiano. Se la bellezza e il coraggio sono prova di nobiltà, e certamente lo sono, benché io abbia visto alcuni tra i più brutti musi e i peggiori codardi proprio nei ranghi della noblesse, questo francese doveva discendere da una delle più grandi famiglie di Francia. Era alto poco meno di me, biondo, mentre io sono bruno, e se possibile anche più largo di spalle. Non ho mai incontrato un altro uomo in grado di battermi allo spadino. Era capace di toccarmi 4 volte per ogni 3 che lo toccavo io. Con la sciabola, invece, avrei potuto farlo a pezzi. E poi saltavo più lontano di lui, ed ero capace di portare pesi maggiori. Questo, però, è solo egocentrismo. Quel francese, di cui divenni molto intimo, in mancanza di un nome certo, veniva chiamato Le Blondin, per via dei suoi capelli. Non era un disertore. Era venuto lì dal Bassoreno e dai Vescovadi, immagino. La fortuna doveva essergli stata ostile al tavolo da gioco, e gli erano forse mancati altri mezzi di sussistenza. È sospetto che nel suo paese, se gli fosse venuto il capriccio di ritornarci, lo attendesse la Bastiglia. Aveva una passione inconsulta per il gioco e per l'alcol, e questo era un motivo della grande simpatia tra di noi. Ma quando era eccitato da una di queste due passioni, faceva davvero paura. Io, per parte mia, reggo senza fare una piega sia la sfortuna al gioco che il vino. Perciò avevo un notevole vantaggio su di lui nelle nostre partite, e gli vincevo abbastanza denaro da rendere sostenibile la mia difficile situazione. Fuori della prigione, Blondin aveva una moglie. Mi pareva di capire che fosse lei la causa delle sue disgrazie e della separazione dalla sua famiglia. Le permettevano di fargli visita 2 o 3 volte alla settimana. Oh, non veniva mai a mani vuote, quella creaturina bruna, con gli occhi vispi e uno sguardo amoroso che ci aveva colpiti moltissimo, dal primo all'ultimo. Come le altre donne del reggimento, la moglie di Le Blondin conduceva un piccolo commercio di contrabbando attraverso la frontiera austriaca. La guerra allora era finita e su tale traffico i doganieri di entrambi gli stati chiudevano un occhio. Le Blondin aveva organizzato una vasta, straordinaria congiura. Non sappiamo ancora fin dove arrivasse né quante centinaia o migliaia di persone comprendesse. Ma tra noi soldati semplici si raccontavano storie molto strane su questo complotto, notizie che si diffondevano di guarnigione in guarnigione e venivano discusse in tutto l'esercito, nonostante gli sforzi del governo per mettere la cosa a tacere. Blondin si era messo alla testa del complotto. Non c'erano scritti né carte. Nessuno dei cospiratori era in contatto con altri che il francese. Era lui in persona a dare ordini a tutti loro. Aveva organizzato una ribellione di tutta la guarnigione, fissata per le 12 in punto di un determinato giorno. I posti di guardia della città sarebbero stati occupati, le sentinelle falciate e poi chissà cos'altro. Alcuni dei nostri dicevano che la cospirazione si estendeva a tutta la Slesia e che alle Blondin sarebbe toccato il grado di generale al servizio dell'Austria. A mezzogiorno, davanti al posto di guardia presso la Böhmertor di Neisse, una trentina di uomini oziavano vestiti in borghese, mentre il francese stava vicino alla sentinella, occupato ad affilare su una pietra una scure da boscaiolo. Al battere delle 12 si alzò, spaccò la testa della sentinella con un colpo d'ascia e i 30 uomini si precipitarono dentro il posto di guardia e, preso possesso delle armi, marciarono subito verso la porta della città. Un'altra sentinella tentò di abbassare la sbarra, ma il francese le corse addosso e con un altro colpo d'ascia le tagliò via la mano destra, che già stringeva la catena. Al vedere gli uomini correre fuori armati, le guardie fuori della porta si schierarono in mezzo alla strada per impedire loro il passaggio, ma i 30 uomini del francese lanciarono una scarica di fucileria e poi attaccarono alla baionetta. Molti caddero, altri fuggirono e i 30 passarono. La frontiera dista solo una lega da Neisse e loro si diressero rapidamente in quella direzione. Ma in città si diede l'allarme e ciò che salvò la situazione fu che l'orologio del francese aveva un quarto d'ora di anticipo su tutti gli altri orologi di Neisse. Il tamburo batté la adunata generale, le truppe vennero chiamate alle armi e così gli uomini che avrebbero dovuto attaccare gli altri posti di guardia furono costretti a restare nei ranghi. E il loro piano venne sventato. Questo però rese anche impossibile la scoperta dei cospiratori, perché nessun uomo era in grado di tradire un altro congiurato e certo nessuno intendeva incriminare se stesso. La cavalleria venne lanciata all'inseguimento del francese e dei 30 fuggiaschi, che nel frattempo erano a buon punto sulla strada della frontiera boema. Quando i cavalli li raggiunsero, quelli si voltarono, li accolsero con una scarica e poi alla baionetta e li respinsero. Gli austriaci erano usciti dalle barriere e seguivano emozionati il combattimento. Le donne, anche loro in attesa, portarono altre munizioni a quegli intrepidi disertori che più volte ingaggiarono battaglia con i dragoni e li ricacciarono indietro. Ma in questi scontri coraggiosi e inutili andò perduto molto tempo, finché non arrivò un battaglione a circondare i valorosi 30. Quel momento decise del destino di quei poveri diavoli. Si batterono con la furia della disperazione. Non uno di loro chiese la resa. Finite le munizioni, continuarono a battersi all'arma bianca e vennero ammazzati a fucilate o alla baionetta, lì dove erano. Il francese fu l'ultimo di tutti a essere colpito. Si prese una pallottola nella coscia, cadde, e in quelle condizioni venne sopraffatto, ma riuscì ancora a uccidere il primo ufficiale che si fece avanti per prenderlo. Con i pochissimi compagni sopravvissuti, venne ricondotto a Neisse, e in quanto capo della congiura, venne subito tradotto davanti a un consiglio di guerra. Rifiutò di rispondere a tutte le domande sul suo vero nome e sulla sua famiglia. «E importa chi sono», disse. «Mi avete preso e mi fucilerete. Il mio nome non potrebbe salvarmi, per quanto famoso». Non volle neanche dire una sola parola riguardo al complotto. «Ho fatto tutto io», affermò. «Ogni uomo che ne faceva parte conosceva soltanto me e ignorava tutti i suoi compagni. Il segreto è soltanto mio ed è un segreto che morirà con me». Quando gli ufficiali gli chiesero quale ragione l'aveva indotto a meditare un crimine così orrendo, rispose: «È stata la vostra diabolica brutalità, la vostra tirannide. Siete tutti macellai, delinquenti, belve. E se non siete già stati ammazzati da molto tempo, lo dovete solo alla codardia dei vostri uomini». A queste parole il suo capitano scoppiò in imprecazioni furiose contro il ferito e, precipitatosi su di lui, gli assestò un pugno. Ma Le Blondin, per quanto ferito, strappò la baionetta a uno dei soldati che lo sostenevano e la piantò nel petto dell'ufficiale. «Canaglia, mostro!» disse. «Avrò almeno la consolazione di mandarti all'inferno prima di morire». Lo fucilarono quel giorno stesso. Immaginate la mia sorpresa quando, ancora al centro di raccolta delle reclute, un giorno giunse al mio orecchio una voce ben nota e sentii un giovane gentiluomo scarno che era stato appena portato dentro da due cavalleggeri e si era preso qualche taglietto sulle spalle dire in perfetto inglese: «Maledetto furfante, mi vendicherò di questo. Scriverò al mio ambasciatore, come vero che mi chiamo Fekenham di Fekenham». Nel vederlo scoppiai a ridere. La mia vecchia conoscenza, con addosso la mia giacca di caporale. Lishen aveva giurato e spergiurato che lui era proprio per davvero quel caporale, e il poveraccio era stato trasferito e ora stava per diventare uno di noi. Ma io non porto rancore. E dopo aver fatto ridere a perdifiato l'intera camerata, raccontando come avevo ingannato quel poverino, gli diede un consiglio che gli guadagnò la libertà. «Andate dall'ufficiale di ispezione», gli dissi. «Se vi portano in Prussia, per voi è finita. Non vi lasceranno più andare. Andate subito dal comandante del centro e promettetegli 100, no no, 500 guinee se vi fa uscire. Ditegli che il capitano degli arruolatori ha le vostre carte e la borsa dei documenti». Questo era vero, ma soprattutto dimostrategli che avete i mezzi per pagargli il denaro promesso e vi garantisco che vi lascerà libero. Fece come gli consigliavo e quando ci mettemmo in marcia, Mr. Fekenham trovò il modo di farsi ricoverare in ospedale. Mentre era in ospedale, la questione venne risolta come avevo raccomandato, ma a furia di mercanteggiare, quel tirchio stava quasi per giocarsi la libertà e non dimostrò mai la minima gratitudine verso di me, il suo benefattore. Non intendo fornire una storia romanzata della guerra dei 7 anni. Alla fine della guerra, l'esercito prussiano, tanto famoso per la sua disciplina e il suo valore, aveva sì ufficiali e sottufficiali nativi della Prussia, ma era composto per la maggior parte da uomini arruolati o rapiti, come me, da quasi tutte le nazioni d'Europa. Il numero dei militari che disertavano da uno dei due schieramenti per unirsi all'altro era enorme. Soltanto nel mio reggimento, quello di Bulow, prima della guerra c'erano stati non meno di 600 francesi. E mentre uscivano a passo di marcia da Berlino per prendere parte alla campagna, uno di loro suonava su un vecchio piffero una canzone francese e i suoi compagni, invece di camminare, quasi gli ballavano dietro cantando. 2 anni dopo, al ritorno a Berlino, di quegli uomini ne erano rimasti soltanto 6. Gli altri avevano disertato o erano stati uccisi in combattimento. La vita del soldato semplice era spaventosa per chiunque non avesse coraggio da leone e resistenza ferrea. Per ogni 3 uomini C'era un caporale che gli marciava dietro usando la sferza senza pietà, al punto che si diceva che in battaglia ci fosse una prima fila di soldati e una seconda fila di sergenti e caporali per spingerli avanti. Sotto queste incessanti persecuzioni e torture, molti uomini cedevano alla disperazione, compiendo gli atti più spaventosi. In molti reggimenti dell'esercito si era diffusa una pratica orribile, che per qualche tempo procurò al governo gravissime preoccupazioni. Si trattava di una strana e terribile consuetudine: l'uccisione dei bambini. Gli uomini dicevano che la loro vita era intollerabile, ma il suicidio era un delitto. Per evitarlo e al tempo stesso farla finita con l'insopportabile tormento della loro condizione, il piano migliore era di uccidere un bambino piccolo, che era innocente e quindi sarebbe certamente salito al cielo, e poi costituirsi come assassini. Le punizioni non finivano mai. Ogni ufficiale era libero di infliggerne, e in pace erano ancora più crudeli che in guerra, perché tornata la pace, il re epurò tutti gli ufficiali che non erano nobili. Faceva venire un capitano di fronte alla sua compagnia e diceva: «Non è nobile, congedatelo!» Eppure noi avevamo paura degli ufficiali. Davanti a uno di loro eravamo timidi come bestie selvagge davanti al loro guardiano. Ho visto gli uomini più coraggiosi di tutto l'esercito piangere come bambini per una sferzata. Ho visto un piccolo alfiere di 15 anni chiamare fuori dai ranghi un uomo di 50, un uomo che era stato in 100 battaglie e che rimaneva lì presentando l'arma e gridava e singhiozzava come un noccioso mentre quel giovane sciagurato lo prendeva a sferzate sulle braccia e sulle cosce. In un giorno di combattimento quell'uomo avrebbe osato qualsiasi cosa. Allora, se anche avesse avuto un bottone storto, nessuno l'avrebbe toccato. Ma dopo che l'avevano fatto lottare come un bruto, gli insegnavano a forza di frustate a obbedire di nuovo. Quasi tutti tra di noi cedevano a questo sortilegio maligno. Nessuno, forse, riusciva a spezzarlo. L'ufficiale francese di cui ho già parlato, quello che era stato preso insieme a me, si ritrovò poi nella mia stessa compagnia, dove veniva fustigato come un cane. Lo incontrai a Versailles 20 anni dopo, e quando gli accennai ai vecchi tempi, diventò pallido come un cencio e si sentì male. «Per l'amor di Dio», disse, «non parlatemi di allora. Mi capita ancora di svegliarmi di notte, tremando e piangendo». Quanto a me, dopo un periodo molto breve in cui, devo ammettere, che assaggiai anch'io la sferza, come tutti i miei compagni d'armi, e dopo che ebbi trovato qualche occasione per dimostrarmi soldato coraggioso e abile, per risparmiare alla mia persona altre umiliazioni, usai il metodo che avevo già adottato nell'esercito inglese. Mi ero legato una pallottola intorno al collo. Non mi curavo di nasconderla e facevo sapere in giro che era destinata al soldato o all'ufficiale che mi avesse fatto punire. E c'era qualcosa nel mio carattere che faceva sì che i miei superiori mi credessero. Ah, quella pallottola mi era già servita per uccidere un colonnello austriaco e l'avrei elargita a un prussiano senza provare maggior rimorso. Che me ne importava, infatti, dei loro bisticci o di marciare sotto un'aquila con 2 teste o con una sola? Tutto ciò che dicevo ora era: nessuno mi vedrà mancare al mio dovere, ma nessuno deve mettermi le mani addosso. E a questa massima mi attenni per tutto il tempo che prestai servizio. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray,